in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa domenicale. Le tasse, la legge di stabilità, meglio il disegno di legge di stabilità e tutte le correzioni che i parlamentari propongono, vedremo quante poi si tradurranno in realtà e quante invece resteranno sulla carta, sono i temi che campeggiano di più sulle prime pagine dei quotidiani di questa mattina, accanto ai temi politici con i tormenti, potremmo dire, dei due maggiori partiti, cioè il PD e il PDL. Il PD con questa sortita silenziosa e rumorosa al tempo stesso di Prodi, che annuncia non voterò alle primarie, e il PDL naturalmente per lo scontro che prosegue tra i cosiddetti lealisti e invece coloro che hanno deciso un sostegno più deciso al governo. Partiamo dalle tasse. Il Messaggero ha come primo titolo casa, Letta aumenta gli sgravi. Perché? Perché il Premier apre alla richiesta del PDL, riferisce il quotidiano romano in prima pagina, di azzerare la TASI. La TASI sarà la nuova imposta tassa sui servizi indivisibili, e assicura a Letta che non ci saranno nuove tasse. Sono 3.093, ricorda il Messaggero, gli emendamenti alla legge di stabilità, quindi proposte di correzione dai due maggiori partiti soprattutto, e Fassina, che il vice ministro all'economia, chiude all'ipotesi di sanatorie o vendite di spiagge. Niente condoni o vendite di spiagge, si era parlato, l'aveva segnalato anche il Sole 24 Ore nella sua edizione di ieri, di una rottamazione delle cartelle esattoriali, almeno per alcune di esse. Questa ipotesi, questa anche richiesta che viene dal Parlamento, però è stata bocciata per il momento dall'esecutivo. Nella prima pagina sempre del Messaggero, lo strappo di Prodi, di cui vi dicevo, strappo di Romano Prodi, non voterò alle primarie PD, caos Democrat, Epifani e Cuperlo contro Renzi. E poi sempre in prima pagina per il Messaggero, la furia del tifone, 1200 morti nelle Filippine, ma il dato, come avete potuto ascoltare dalla collega Valentina Furlanetto nel corso del giornale radio che ha preceduto questa rassegna stampa, il dato è purtroppo molto molto lontano dalla realtà. Ora si parla addirittura di 10.000 vittime per il tifone e le condizioni delle località colpite da Haiyan, con venti a più di 300 km all'ora, le condizioni rendono difficile anche la stima dei danni come vite umane. Questo dalla prima pagina del Messaggero. Il Corriere della Sera da ad Haiyan il suo titolo principale, nel senso che lo colloca al di sotto della testata. Il tifone devasta le Filippine, anche qui fa più di 1200 morti, il dato era quello accreditato questa notte alla chiusura dei giornali, e quindi, come vi dicevo, è purtroppo sottostimato. Comunità italiana in ansia, abbiamo ricordato nel giornale radio, non sono segnalate vittime italiane o coinvolgimenti di italiani appunto coloro che sono stati colpiti da Haiyan, dal tifone Haiyan. Titolo principale è a centro pagina per il Corriere della Sera, nel senso che è il titolo più ampio, più alto come corpo. Tasse locali, conto da 503 euro, le addizionali comunali salite dell'8,5%, la mappa degli aumenti delle città, il record di Roma. L'aumento delle tasse locali è un tema noto ai lettori, è un tema noto a tutti noi, soprattutto che poi ci ritroviamo a pagare questi aggravi che provengono appunto dai sindaci, dalle province o dalle regioni, sostanzialmente per una riduzione dei trasferimenti dal centro. Del tema ci siamo occupati molto spesso anche sul Sole 24 Ore. Intesa tra PD e PDL, pensioni bloccate solo sopra quota 3.000, si intende i 3.000 euro lordi al mese. Il blocco delle pensioni sta a indicare la loro non indicizzazione, cioè non verranno adeguate al costo della vita. Questa è la proposta appunto per quanto riguarda la legge di stabilità. L'editoriale del Corriere della Sera È di Michele Ainis e si occupa di legge elettorale, parla delle amanti del Porcellum, appunto la legge elettorale in vigore che dovrebbe essere superata, ormai il tempo stringe perché a dicembre la Corte Costituzionale potrebbe cassarla, potrebbe censurarla in tutto o in parte. E scrive Ainis: il Porcellum non ha mogli, però è stracarico di amanti, in pubblico non lo vezzeggia mai nessuno, in privato lo sbaciucchiano molte signorine licenziose. Le signorine licenziose sono alla fine, insomma, si comprende più, poco più oltre dell'articolo di Michele Ainis, sono gli stessi partiti che in qualche modo si giovano di queste regole un po' astruse del Porcellum. I vizi, li chiama lui, del Porcellum, si traducono in altrettanti vizi di costituzionalità, sicché a dicembre la Consulta dovrà prendere il toro per le corna. E quindi dice Ainis: in pubblico, per carità, tutti dicono di voler superare questa legge elettorale, altro poi è decidere di rinunciare anche ai vantaggi che questa legge elettorale ha potuto garantire. Intanto vorrei segnalare sulla vicenda del satellite. Satellite, come sapete, che sta girando sopra le nostre teste, e meglio, sta per cadere sopra le nostre teste. Sarà anche vero che abbiamo, come dire, è 250.000 volte più difficile essere colpiti da un frammento del satellite piuttosto che vincere il primo premio di una lotteria. Però la nostra protezione civile, che evidentemente non dispera di vincere la lotteria, ha comunque diramato una serie di raccomandazioni. Allora, in puro spirito di servizio, dalle 8:26, quindi di qui a un'ora, alle 9:06 di oggi, comunque qualche frammento del satellite potrebbe cadere nelle zone comprese tra il nord Italia, la Toscana, fino alla Toscana e anche interessare la Sardegna. Lo stesso. Quasi le stesse aree, nel senso Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna, sono interessate dal passaggio del satellite con possibile caduta di frammenti dalle 19:44 alle 20:24 di oggi. Questo è la seconda finestra, il secondo slot, come si potrebbe dire in termine aeronautico, che appunto dobbiamo considerare per il passaggio del satellite. E poi, entro le 13 di domani, dovrebbe essersi conclusa questa possibile pioggia. Allora, precisato che è effettivamente giudicato assolutamente improbabile essere colpiti da uno dei frammenti di questo satellite, però la nostra protezione civile, ce lo ricorda il Corriere della Sera, è il giornale da cui sto traendo queste indicazioni, ma un po' su tutti i giornali vengono segnalate queste fasce, queste finestre di possibile caduta a pezzi del satellite. Ecco, ce lo ricorda il Corriere della Sera. State più o meno la protezione civile ha detto che ci sono certo rischi bassissimi, però sarebbe meglio starsene al coperto, stare al chiuso. La prima fascia tra un'ora, la prima fascia di esposizione possibile, tra le 8:26 e le 9:06 di oggi. Le regioni interessate sono quelle del nord Italia, quindi dalla Valle d'Aosta per arrivare fino al Veneto compreso, e con l'interesse anche dell'Emilia-Romagna, la Toscana e la Sardegna. Questo per quanto riguarda il passaggio del satellite, lo diciamo anche se volete in modo scaramantico, è appunto assolutamente improbabile essere colpiti da uno dei frammenti, però ce lo ha precisato anche la protezione civile, perché rinunciare a un buon consiglio. Veniamo alla stampa. Per un minuto, poi daremo la linea appunto alle previsioni del tempo, nel senso meteorologico, non nel senso appunto della caduta di oggetti dallo spazio. La stampa decide di dare il suo titolo principale alla vicenda di Prodi e del Partito Democratico. L'ultimo strappo di Prodi, si legge nel titolo principale del quotidiano di Torino, non voto alle primarie del PD. E scoppia il caso dei centristi, non vogliamo il congresso del PSE in Italia. C'è un'intervista annunciata già in prima pagina dalla stampa a Rosy Bindi: ci serve un governo che faccia, non solo che duri. Non sacrifichiamo il bipolarismo alla stabilità. E poi, per quanto riguarda la manovra, giallo finito sulla rata IMU, pagano banche e assicurazioni. Insomma, si è trovata la copertura. Sempre annunciato dalla stampa in prima pagina, un inserto che si trova all'interno del quotidiano, 50 anni dalla uccisione di John Fitzgerald Kennedy a Dallas, con i racconti inediti, gli interventi degli ex presidenti e una serie di analisi, un inserto di 16 pagine dedicato appunto a JFK. E ora ascoltiamo le previsioni meteorologiche. A dopo. In primo piano. Bentornati alla nostra rassegna stampa, ancora buona domenica da Mauro Meazza, grazie a Carmelo Lauricella, questa mattina mi assiste in regia. Vi stavo raccontando come i quotidiani abbiano sostanzialmente tre argomenti su cui puntare questa mattina, e si tratta della legge di stabilità, la ex finanziaria, una volta la chiamavamo così, dei tormenti politici che affliggono sia il PD, il Partito Democratico, sia il PDL, e del tifone, il tifone che sta colpendo le Filippine devastate dal tifone Haiyan, scrive il Secolo XIX. Il Secolo XIX, tra l'altro, fa sormontare questo titolo, che è il suo titolo principale, il suo titolo più importante di prima pagina, con una grande raffigurazione del satellite, questo satellite Goce, così si dice in sigla, che sta appunto completando la sua vita utile, precipitando sulle nostre teste. Qualche frammento, come sapete, potrebbe anche cadere in Italia, in particolare nelle zone del nord Italia. Dalle 8:26 di oggi fino alle 8:28 di domani, ricorda il Secolo XIX. I rischi sono, dicono gli esperti, assolutamente irrisibili. È più facile, molto più facile, vincere a una lotteria, una di quelle lotterie nazionali con percentuali da 1 su milioni, che essere, piuttosto che essere colpiti da un satellite. Però in compenso, come vi raccontavo nella nostra parte precedente di questa rassegna stampa, la nostra protezione civile ha deciso di diramare un comunicato in cui segnala le fasce, le finestre in cui, appunto, le finestre orarie in cui il satellite passerà sopra le nostre teste. E così, appunto, lo ricorda anche il Secolo XIX in prima pagina. In prima pagina del Sole 24 Ore le questioni delle tasse e della legge di stabilità. Fisco, maxi ingorgo fra tasse e scadenze, in 50 giorni 22 appuntamenti, in gioco 120 miliardi. Rinvio dell'IMU, legge di stabilità e bilanci dei comuni rendono incerte entità e date dei pagamenti. Già, perché sulle scadenze già previste incombe, come dire, l'incertezza normativa, e questo ricorda il Sole 24 Ore. Noi abbiamo per ora un'intesa di tipo politico per il superamento della seconda rata IMU sulla prima casa, ma manca, come si dice in gergo, il veicolo normativo. Quindi l'intesa sarebbe stata trovata appunto con un aggravio degli acconti da pagare da parte delle banche e delle assicurazioni, ma va costruita la norma che disponga tutto questo e garantisca così l'introito che serve per coprire la seconda rata dell'IMU. Allo studio sgravi fiscali sul salario di produttività è il titolo dedicato dal Sole 24 Ore alla legge di stabilità, con legge per cui anche il nostro quotidiano ricorda sono stati presentati 3.093 emendamenti. Si tratta sulla casa, si tratta, cioè, sapete che c'è l'ipotesi di introdurre delle detrazioni che renderebbero meno pesante il conto della TASI, la nuova imposta sui servizi indivisibili che sarà applicata dai comuni, però prudentemente il Sole 24 Ore dice siamo ancora alle trattative, non è stato definito nulla di puntuale. E poi il plenum del Partito Comunista Cinese, che potrebbe segnare un'ulteriore svolta in senso capitalista, si potrebbe dire, o comunque per un nuovo modello di sviluppo. La Cina prepara la svolta per favorire la libertà economica, lo ricorda appunto il Sole 24 Ore. Nelle pagine interne, il caos fiscale di fine anno in 22 tappe, raccontato appunto con una grande infografica e tutte le incognite ancora che gravano su queste scadenze ormai imminenti, e a pagina 2 anche un lavoro puntuale sull'IVA non pagata. Ci sono stati ieri diversi dati a certificare la crisi, tra cui appunto la chiusura delle partite IVA, che un po' sta a segnalare la difficoltà di portare avanti un'attività economica in questi anni. Un altro dei segnali di disagio è quello che ricorda il Sole 24 Ore: l'IVA non pagata. Nei primi 6 mesi i casi sono al livello di tutto il 2010. Perché non si paga l'IVA? Perché sostanzialmente non c'è liquidità, né è facile ottenere la liquidità appunto tramite prestiti dagli istituti bancari. Tutto questo viene raccontato a pagina 2 del Sole 24 Ore. Ci sono anche i casi di quei giudici che, quando l'IVA non pagata fa passare addirittura in ambito penale, ci sono però dei giudici che decidono di non dar corso all'aspetto penale della cosa e assolvono. È successo di recente anche a Milano, era già successo a Venezia ed era successo anche a Firenze. Per quanto riguarda la legge di stabilità, un riepilogo alle pagine 4 e 5 del Sole 24 Ore delle questioni aperte. Vedremo poi nel corso di questa settimana come andrà a comporsi la scrematura, il setaccio degli emendamenti che sono stati presentati dall'una e dall'altra parte politica. Vi segnalo poi un anniversario che una volta tanto possiamo guardare con una certa tranquillità, almeno per il momento. 2 anni di cure della Banca Centrale Europea frenano lo spread. Già, perché il 9 novembre 2011 fu uno dei punti massimi di spread, venne toccato addirittura il massimo storico di sempre, di 575 punti di distanza tra i nostri titoli del debito pubblico decennali e i titoli di pari durata tedeschi. Ecco, era il 9 di novembre, quindi 2 anni fa, ieri. Adesso lo spread si è, come dire, raffreddato a livelli molto meno preoccupanti, 230-239. Tra l'altro, secondo il giudizio anche del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, comunque resta troppo alto e si deve operare per ridurlo ulteriormente. Il lavoro di Vito Lops sul Sole 24 Ore di oggi ricorda tutto questo, con un'analisi anche di Walter Riolfi sul comportamento e le politiche della BCE. Tra l'altro, a proposito di BCE, cioè di Banca Centrale Europea, nelle pagine di Finanza e Mercati si ricorda che il 25 di novembre saranno convocati i vertici operativi delle prime 128 banche europee. Appunto, Draghi chiama rapporto i banchieri, incontro plenario in vista dell'Asset Quality Review, cioè della verifica sulla solidità delle maggiori banche europee, verifica che viene gestita direttamente dalla Banca Centrale Europea e quindi da Mario Draghi. Saranno presenti, ricorda il lavoro di Marco Ferrando, saranno presenti i 15 CEO, i 15 Chief Executive Office dei maggiori gruppi bancari italiani. Tutto questo sul Sole 24 Ore. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto e ascoltiamo quali sono le condizioni del traffico. A tra poco. In primo piano. Bentornati in questa ultima tranche della nostra rassegna stampa. Ancora una buona domenica da Mauro Meazza e buona domenica anche da Carmelo Lauricella questa mattina in regia. Vorrei, come dire, prendere una boccata d'aria dalle questioni delle tasse con cui abbiamo chiuso la nostra tranche precedente. Parliamo di sport. Non sempre le notizie sportive sono di come dire, buon auspicio o sono comunque di sollievo, però ieri c'è stata appunto questa vittoria dell'Inter sul Livorno, ma soprattutto è stato il momento del passaggio delle consegne tra il presidente Moratti e colui che sarà invece il nuovo proprietario della maggioranza dell'Inter, cioè Erik Thohir, che prenderà appunto possesso della squadra questa settimana. C'è stata anche una notizia importante per i tifosi interisti, ma direi anche in generale per il calcio: è rientrato ieri nell'ultima parte della partita con il Livorno Xavier Zanetti, capitano, rientrato appunto dopo un infortunio grave, un grave infortunio, e nonostante un'età che comincia ad essere importante per un calciatore, a testimonianza di una carriera sportiva davvero esemplare. Ma la prima pagina della Gazzetta Sportiva, da cui vi stavo raccontando appunto queste vicende che riguardano la sponda nerazzurra di Milano, è occupata in gran parte dalla questione del Milan. Galliani Milan, il lungo addio. Entro aprile il club sarà di Barbara, si intende Barbara Berlusconi, che tratta con Maldini, Albertini, Fenucci, Uva e Paratici. La D, Galliani, si limita a un laconico: Berlusconi sarà sempre il mio presidente. E poi, naturalmente, c'è la partita. Oggi Allegri rischia molto col Chievo, ma è da Arcore, ricorda la Gazzetta, che arriva alla sferzata più importante. Questo sulla prima pagina della Gazzetta Sportiva, che poi naturalmente rammenta con un titolo di rilievo sulla parte destra della sua prima pagina la sfida, la grande sfida di oggi: Juventus-Napoli, scintille per accendere la lotta scudetto. Tutto questo sulla Gazzetta Sportiva. Torniamo invece alle questioni delle tasse. Vedremo come poi questa settimana andrà a concludersi la complicata trattativa sulla legge di stabilità, quali saranno le nuove o se non ci saranno nuove tasse, quali saranno i ritocchi ai vari prelievi, la rimodulazione, insomma, del prelievo fiscale statale e locale nei nostri confronti. Il giornale titola con il piano taglia tasse e sopra questo titolo leggiamo manovra da rifare. Sostanzialmente il giornale presenta gli emendamenti, in particolare quelli presentati dal PDL. La rivoluzione fiscale di Forza Italia comincia dagli emendamenti alla finanziaria, vendita delle case popolari, sgravi sugli straordinari, mano più leggera sulle altre imposte. E poi una foto centrale per Fini, Gianfranco Fini, che si dice: Fini vuole tornare in pista con Alfano. Gianfri, se fa il PPE italiano, sto con lui, così ricorda il titolo sopra, al di sopra di questa foto. E poi caos nel Partito Democratico, gli ex Margherita vogliono lasciare. Questo sulla prima pagina del giornale. Cambiamo orientamento, cambiamo schieramento politico. L'Unità dedica il suo titolo principale invece ai tormenti del Partito Democratico. PD, battaglia sulla sinistra, Cuperlo. Non saremo mai il volto buono della destra. Epifani, l'attuale segretario, annuncia che il congresso PSI si terrà a Roma. Fioroni minaccia la scissione. E poi la lettera di Renzi agli iscritti e lo strappo di Prodi: Prodi, non voterò alle primarie. Per quanto riguarda la legge finanziaria, pardon, legge di stabilità, così come il giornale presentava gli emendamenti PDL, l'Unità ricorda in prima pagina le proposte di correzione che vengono invece dal PD, sanatorie e concordati non se ne parla. Il riferimento è appunto alla possibile rottamazione delle cartelle esattoriali e ricorda appunto la contrarietà del Partito Democratico a questo tipo di misure. Il governo chiude le porte alle proposte della destra. Sulla web tax, poi Grillo che sconfessa i 5 Stelle, appunto i suoi parlamentari, pardon, i parlamentari che fanno riferimento a Beppe Grillo l'avrebbero anche condivisa, ma lui è contrario. E poi spiagge rivolta contro la cessione, no alla svendita. Tutto questo sulla prima pagina dell'Unità di oggi. E poi, tornando invece in altra area, nell'altra parte delle larghe intese, Libero, la corte delle auto blu, ecco dove tagliare. E a chi ci si riferisce? Alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale costa troppo, la notizia non è solo su Libero, è anche su altri giornali, ma è Libero che decide di dare a questa circostanza, a questi dati, il titolo principale. Ricorda già in prima pagina, tra stipendi, benefit e personale di servizio, i 15 giudici della Consulta ci costano quasi 3 milioni a testa. 150.000 euro solo per spostarsi e tutti i 200 in pensione incassano 200.000 euro l'anno. Curiosa la maniera con cui Libero decide di segnalare il passaggio del satellite. C'è una vignetta che riprende Angela Merkel a cavallo appunto di un satellite. L'Europa ci perseguita anche dallo spazio. Allarme: il satellite UE cadrà sull'Italia. Satellite appunto ESA in realtà, cioè dell'Agenzia Spaziale Europea. Il legame con Angela Merkel nella vignetta è forse gustoso, ma sicuramente un po' improprio. E poi il Fatto Quotidiano, che torna invece su una delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri venerdì: il governo butta 10 miliardi per l'autostrada degli amici. Il titolo è polemico nei confronti della via libera alla Orte Mestre. Dice il Fatto, un vecchio progetto che sembrava archiviato anche per mancanza di soldi. Noi invece siamo a questo punto archiviati per mancanza di tempo, quindi da parte mia, da Mauro Meazza, ancora un augurio di una buona domenica. Grazie a Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia. Ci risentiamo domani con la solita telefonata da parte di Alessandro Milan. Buona giornata a tutti.